C'era una volta una donna dal cuore d'oro, che con le mani cuciva sogni nel tempo. Ogni parola è un segreto, un consiglio prezioso. Ogni sorriso un rifugio, un abbraccio caldo. Oh nonna, la tua saggezza è un faro nel buio. Mi ha insegnato a camminare con la testa alta. Ogni gesto, ogni parola, un amore che non finisce. Tu sei la luce che guida il mio cammino. Con i tuoi racconti hai scritto la nostra storia. Ogni pagina un'avventura, un passo nel cuore. Mi hai insegnato a credere nei sogni più grandi e a trovare bellezza nelle cose semplici e vere. Oh nonna, la tua saggezza è un faro nel buio. Mi hai insegnato a camminare con la testa alta. Ogni gesto, ogni parola, un amore che non finisce. Tu sei la luce che guida il mio cammino. E quando il mondo sembra troppo grande, ricordo il tuo abbraccio, la tua voce che calma in ogni passo che faccio. Tu ci sei, un eco di forza che mi accompagna sempre. Oh nonna, la tua saggezza è un faro nel buio. Insegnato a camminare con la testa alta. Ogni gesto, ogni parola, un amore che non finisce. Tu sei la luce che guida il mio cammino. Tu sei la luce. Guida il mio cammino.